Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Questa è la puntata numero 25. Il 25 richiama assolutamente il tema di questa puntata, ma ne parleremo tra un attimo. Vi presento subito il collega, ospite, amico e nerd, perché se non è nerd non lo vogliamo, Giuliano dalla Sardegna. Ciao Giuliano. Ciao a tutti e auguri, così vai per introdurre un po' il tema. Perfetto, bravissimo, hai fatto l'introduzione giusta. Allora, puntata numero 25, tutti sanno che il 25 di dicembre è Natale e tutti sanno che bisogna organizzarsi per tempo per fare i regali di Natale, perché sennò poi si arriva il 24 pomeriggio che si va nel centro commerciale e l'unico modo per sopravvivere è portarsi un AK-47. Quindi, noi oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo darvi l'opportunità di spendere un sacco di soldi in un sacco di gadget gingilli assolutamente nerd soltanto per voi o per i vostri amici assolutamente nerd, perché sono robe molto molto particolari. Dico bene, Giuliano? Guarda, non so, a me anche in famiglia mi classificano come nerd, anzi certe volte anche peggio. Ma con la M davanti perché ti comporti male? No, ecco, no, sempre con la M, ma dicono nerd, sei un nerdone. Ah, perfetto, benissimo. È un ottimo modo per iniziare e per volersi bene in famiglia. Sì. Va bene, allora diciamo che l'obiettivo di oggi è quello di fornirvi una descrizione a voce di alcuni oggetti che secondo noi potrebbe valere la pena acquistare. Ovviamente i link li troverete tutti quanti nel sito, perché darvi tutto il link via voce è assolutamente fuori di testa. Quello che vi consigliamo sono cose che o ci piacciono oppure che ci piacevano, le abbiamo comprate, le abbiamo provate e sono interessanti. Ovviamente non ci pigliamo nessuna responsabilità se li comprate e non vi piacciono. Internet è pieno di informazioni, documentazione, guardate bene tutto e poi decidete in assoluta libertà cosa comprare, cosa no e come spendere al meglio i vostri soldi. Certo, e soprattutto se avete qualche dubbio, magari parliamone e vediamo. Verissimo, verissimo. Se avete qualche dubbio, c'è il forum su GitHub, venite, scrivete e noi rispondiamo, giusto? Ci mancherebbe. Perfetto. Allora, io direi di partire con la carrellata, perché gli oggetti nell'elenco puntato della scaletta è un elenco puntato e non numerato, quindi non so quanti siano, ma siamo almeno a una quindicina, quindi possiamo partire. Vado io con il primo, che è una cosa per nerd anziani, mettiamola così. E Nintendo ha fatto uscire il Nintendo Classic Mini. Praticamente è una scatoletta come se fosse un Retro Pie fatto con il Raspberry, ma fatto da Nintendo, con la forma del Nintendo, con due pad e 30 giochi dentro. 30 giochi ovviamente con la licenza, quindi potete giocarli senza averli scaricati da chissà dove. Sono originali Nintendo, si ha l'uscita in HDMI, quindi l'attaccate sul televisore e potete tornare agli anni 80 ma con un televisore piatto in HD. L'unico difetto è che purtroppo i giochi sono 30 e Nintendo ha già detto che non ci saranno espansioni, quindi quelli sono e quelli restano. Se ne volete di più, Raspberry Pi, Retro Pi e i giochi dove li trovate li trovate. Dai soliti amici. Benissimo, giusto, giusto, giusto, ma noi non sponsorizziamo le cose non legali, no, mettiamola no. Così. Infatti. È un dispositivo per i nerd anziani pigri, perché non hanno voglia di mettersi lì, di sbattersi, di installarsi la RetroPie, poi vedere che non funziona, cercare i driver del controller, eccetera, eccetera. Secondo me è una cosa molto molto carina, ha un prezzo tutto sommato accettabile, mi sembra che costi 90 euro. Ma diciamo che è fuori dai miei budget, però per un regalo da fare ad un nerd potrebbe essere, insomma, interessante. Per Natale il budget di solito si cerca di sfiorarlo, di superarlo, e quindi magari si riesce. Sì, beh, certo. Anzi, noi facciamo questa puntata apposta per informare le persone in modo che possano risparmiare in anticipo per i regali di Natale. E soprattutto la facciamo a inizio di novembre, così avete tutto il tempo di guardare, di scegliere e di farveli spedire, perché difficilmente saranno cose che trovate da Media World il 24 mattina per incartarli per il 24. Assolutamente, anzi premunitevi per tempo, perché gli amici dietro l'angolo non sono e forse siamo già in ritardo per Natale, a meno che non scegliate la consegna veloce. Eh sì, purtroppo, perché l'angolo è un angolo grande, ma proprio un angolo lungo. Giuliano, prego, con il tuo, nella scaletta li ho alternati, così sì, parliamo un benissimo, un po'. Fatto benissimo. Infatti, parlando di amici dietro l'angolo, un bel gaggettino, anzi due bei gaggettini dagli amici dietro l'angolo, da un negozio ufficiale che, o diciamo da un produttore ufficiale che sforna anche delle bellissime altre cosette, sempre riguardanti l'ambito, come possiamo dire, elettronico, gaggettistico, IoT, insomma tutta quanta quella sfera che gira attorno a quelli che può, a quello che può essere Arduino e i suoi fratelli, possiamo dire così, un po' la famiglia dei microcontroller che servono ai maker per fare le loro cosette. Questo primo gaggettino cos'è? È un interruttore wireless, che uno dice, ma interruttori wireless ne esistono già tantissimi. Mi ricordo quelli, per esempio, di cui abbiamo già parlato un'altra volta, della Livolo, che sono interruttori molto particolari, perché possono integrare anche un ricevitore a 433 MHz e quindi possono essere comandati anche con un telecomandino, per dirla in parole povere. Cos'ha di nuovo questo interruttore? Questo interruttore è wireless, Wi-Fi, ecco, diciamo più Wi-Fi nel vero senso della parola, cioè si integra con la vostra rete di casa. Questo cosa vuol dire? Che oltre a poterlo ovviamente accendere e spegnere tradizionalmente, diciamo così, dal suo posto, tra l'altro vedo che è soft touch, quindi è completamente touch, si sfiora, è bellissimo, sì, è anche bello da vedere. È copiatissimo dalla Livolo, diciamocelo, come struttura e come estetica. Quindi è touch, ok, però oltre ad essere touch è accompagnato all'interno da un ESP8266. Questo cosa vuol dire? Un riassunto per chi è fuori un po' dal mondo espiano, come abbiamo detto altre volte. E se siete fuori dal mondo degli ESP, fate mea culpa e compratevene uno che costa 2 euro. Esatto. Allora, che cosa vuol dire? Che è completamente programmabile e quindi può essere comandato ad esempio via MQTT tramite il vostro Raspberry per accendersi e spegnersi ad una certa ora, o per fare la simulazione del contro i ladri, nel fatto che io sono a casa, accendo e spengo la luce, eccetera eccetera. Potete programmarci dentro un micro web server e collegarvi da remoto a questo micro web server per accendere e spegnere, cioè comunque abbiate un po' di fantasia, è programmabile, c'è un ESP dentro, e quindi tutto quello che si può fare con un ESP è un relè rispetto ad una lampadina, potete farlo. Ecco, questo è il sunto della situazione. Io perché l'ho comprato? Non mi è ancora arrivato, devo dire la verità. L'ho comprato perché mia figlia non spegne mai la luce in camera sua. E a me rompe le scatole e dirgli ogni volta vai spegni la luce, vai spegni la luce. Allora, adesso finalmente... Le fai l'app sul telefonino, adesso tiri fuori il telefono e spegni. Assolutamente, adesso finalmente ognuno di noi avrà un'app sul cellulare per spegnere la luce in camera di mia figlia. Insomma, l'IoT è per quelli che io chiamo culi pesanti. Esatto, sono completamente d'accordo, però vedi... Poi alla fine le idee vengono fuori da delle esigenze. No, ma sai cosa? È che con le piattaforme così aperte, cioè ti dicono guarda che lo comandi via Wi-Fi come vuoi tu, e ha un relè, il limite è la tua fantasia e la capacità di lavorare. Assolutamente. Scusa, ho però dimenticato una cosa importantissima. qual è? Allora, come i Livolo, anche questi interruttori non hanno bisogno di alcuna modifica al vostro impianto. Dico questo perché, allora, un qualsiasi interruttore che avete visto finora, anche wifi eccetera, ha comunque bisogno di un'alimentazione. Dentro il vostro interruttore normalmente passa solamente uno dei due fili della 220, cioè o la fase, anzi tipicamente la fase o il neutro. Bene, il diciamo che tipicamente quello che capita, perché è difficile, sì, che gli elettricisti si mettano lì a guardare qual è la fase. Allora aspetta, non tipicamente, ma diciamo teoricamente, va bene? Ok. Teoricamente dovrebbe essere la fase. Bene, il discorso qual è? Che questo interruttore sfrutta un tipo di come possiamo dire, di principio, adesso non sto qui a spiegarvi, comunque sfrutta il fatto che passa la corrente tramite la lampadina anche a LED, e con quel minimo di corrente che fa passare tramite la lampadina senza accenderla riesce ad alimentarsi. Il sunto è questo, quindi non dovete fare nessuna modifica all'impianto, aprite la scatoletta, togliete i fili dall'interruttore, li mettete nei buchi dell'interruttore, del nuovo interruttore wifi, a posto, già funzionante. Fermo, fermo, una cosa da fare prima: staccate l'interruttore, se non sapete farlo fatelo fare da un elettricista, perché con la 220 ci si fa male, ok? Però se siete anche gente che programma un microcontrollore, cioè se non staccate la corrente e vi prendete la scossa, allora ve lo meritate. Bravissimo, ecco. No, davvero, con la 220 bisogna fare attenzione come sempre, quindi certo, stateci all'occhio. Certo. Quindi secondo gadget della famiglia iTed è una cosa che già avevamo visto, ed è sempre un interruttore più semplice. Ah, scusa, ti sì, interrompo, sì. Meno di 14 euro l'interruttore, certo, vai avanti. Scusa. Ah, certo. Bene, allora, questo di cui dove parliamo adesso costa anche meno, credo che sia sui 9 euro, una cosa del genere. Sì, 10,80 euro scontato ora a 9,50, ma è in out of stock. Ah, che peccato, vabbè, io l'ho già comprato i due, però devono ancora arrivarmi, arriveranno insieme con l'interruttore. Che cosa sono? Allora, stesso principio dell'interruttore programmabile, eccetera, da collegarsi a apparecchi, ok, in generale, una lampada, una lavatrice, un quello che vogliamo, ovviamente teniamo presente quanto possono supportare, ma credo che supportino 16 ampere, quindi non sono proprio piccolissimi come o comunque con un range piccolo di corrente supportata. Questi quindi sono degli interruttori che accendono, spengono un vostro dispositivo. Però che cosa hanno in più questi nuovi? Questi nuovi hanno in più integrato il power meter, cioè quello che vi consente di capire quanto quel device sta assorbendo. Ora, era già un discorso che facevamo una volta con Francesco su, quando abbiamo parlato del suo controllo sui consumi, che dicevamo, quando suona il controllo dovresti poter staccare un elettrodomestico, vero Francesco, ti ricordi? Avevamo, sì, giusto, giusto. Sì. Avevamo parlato del forno, ma il forno è intoccabile, giusto? Giusto, a casa mia sì. E quindi parlavamo del fatto che sì, tu stacchi, però effettivamente non sai se quel elettrodomestico è in funzione in quel momento, mentre invece con questo sistema qua possiamo conoscere anche il fatto che quell'elettrodomestico sia in funzione, quanto sta assorbendo, perché la lavatrice potrebbe anche non essere nonostante sia in funzione, potrebbe non essere il maggior consumatore di corrente, perché magari non è nel momento in cui scalda l'acqua, perché poi alla fine la lavatrice consuma molto quando scalda l'acqua, perché c'è la resistenza che parte. Sì, e quindi, oppure nell'attimo in cui c'è la partenza del motore, tipo per essere da ferma a centrifuga a un picco, ma dura pochissimi, esatto, secondi. Esatto, assolutamente. Quindi con questo possiamo sapere se sta assorbendo, ma non solo, possiamo ovviamente anche immagazzinare questi dati in uno dei soliti servizi cloud o come avevi fatto tu Francesco, in un foglio o comunque dentro un log, insomma dove vogliamo, possiamo immagazzinare questi dati per poi ricavarne statistiche, bla bla bla, eccetera eccetera. Qui mi manca una parte di statistica, mi manca Mario per poi organizzare i dati. Però... Eh no, Mario, poi dobbiamo coinvolgerlo per fare la parte web e certo. Per farci fare le query. Esatto, con tutti quei bei gadgettini per fare i grafici, sai, quelle cose molto esatto. Ricchioncelle. Esatto. Allora, e niente, quindi sostanzialmente questi due apparecchi si integrano quindi con la famigerata rete IoT che vorremmo fare tutti quanti a casa, insomma. Bene, fatela per bene, perché poi finisce come le telecamere cinesi che ve le hackerano e le usano per fare attacchi di DOS. Bene, bene, la cosa che mi dà fastidio di questo dispositivo è che io per fare il mio con il display e con qualche funzionalità in meno ho speso 6 volte quello che costa questo qua, ma esatto. Non importa. Adesso parliamo di un oggetto che è un po' caro, perché costa $180, ma andate sul sito, guardate 3-4 video e vi innamorate di lui. Allora, avete presente Wall-E? Il robottino che fa tutte le facce, che si arrabbia, ecco. Voi trasportate le faccine tipo Wall-E su un robottino che è grande, tipo, sarà 6 cm con 2 cingoli, e che è un'intelligenza artificiale, che gioca con voi, che gioca per vincere. Se vince... festeggia, se perde si arrabbia. Io spero che Giuliano stia già guardando i video e che stia già piazzando l'ordine, perché io ci è mancato poco che non l'abbia già fatto. No, tu stai mettendo il coltello nella piaga. Ecco quel robottino lì che si chiama aspetta, perché Cosmo. Si è aperto Cosmo, sì, mi si è aperto una finestra di aggiornamento sul Mac che mi copriva la pagina. È una cosa bellissima. Tra l'altro ha le API, quindi si può intervenire, lo si può far interagire con Twitter. Insomma, è una figata pazzesca. Oh mamma mia, cioè, tu mi stai mi stai portando a fare una sciocchezza. Ecco, benissimo, è un oggetto che io l'ho visto e ho detto a mia moglie: senti, io voglio questo per Natale, lascia perdere i giochi della PlayStation, voglio questo. Guarda, tra l'altro, però, sì, Wall-E sì, però questo, sai, somiglia proprio al robottino, sai quale di Wall-E? Quello che puliva dove Wall-E passava? Sì, ma perché lui si arrabbia, cioè... Se tu guardi nel video, quando perde si arrabbia. Mamma mia. Guarda. È bellissimo. Ah, poi da montare. No. Allora, quella foto lì è fatta solo per farti vedere quanti pezzi sono, che non sono tanti. Ah, che lui peccato. Arriva in una scatola già montato, già operativo. Lo metti in carica, lui parla con il telefonino, con il Bluetooth, hai l'app. Tra l'altro si accorge se va sul bordo del tavolo, si accorge se si sta schiantando da qualche parte, ci sono dei cubotti con cui lui interagisce, capisce i comandi se gli indichi una cosa di spostarlo di là, insomma è quasi una intelligenza artificiale. Mamma mia, peccato non in kit, perché mi sarebbe piaciuto anche in kit. Ma te lo smonti e te lo rimonti. Certo, sì. No, praticamente c'è anche scritto, mi sono guardato un po' il sito, che non puoi farci della manutenzione, quindi bisogna solo trattarlo bene e tenerlo pulito, perché avrà 762 sensori. È minimo, certo, però che bellezza. È troppo carino, e costa $180, però secondo me per quello che fa ne vale veramente la pena. Ma senti, ma se io dicessi a mia figlia: ma guarda che bellino qua, perché non te lo fai regalare per Natale? Ecco, il problema è che poi le arriva e ci gioca lei, perché è fatto anche per stare con i bambini. Cioè noi ci giochiamo perché è un oggetto figo, guardiamo i sensori, come può funzionare, perché noi siamo fondamentalmente malati, ma un bambino con un oggetto simile, tu non sai quanto si può divertire. Mannaggia. Guarda, abbiamo avuto una brutta esperienza con un... Aspetta, come si chiamano quei? Ah, il Furby, ecco. Il Furby che è... ma il Furby è un bambolottino e basta. Ma il Furby è una gran cagata, cioè diciamocelo, dai. non possiamo esimerci dal dirlo, ecco. Ora a giochi precisi ci fa una di quelle cause che non finisce più e diventeremo tutti quanti poveri. Vabbè, guarda, più poveri di così. Lo hai detto tu, quindi li giro verso casa tua. Aspetta, okay? Quindi metto come si dice, cioè come si fa nelle IMHO, così almeno siamo in my humble opinion. Esatto, perfetto. Siamo a posto. Bene, allora vai tu con il prossimo switch Wi-Fi. Allora, aspetta, questo anche questo l'ho comprato. Devo solo aprire il link perché non mi ricordo una cosa. Allora, diciamo che questo è sempre della stessa famiglia degli altri. La funzionalità è sempre quello dello switch, però qual è la particolarità? Che a questo switch si possono attaccare dei sensori, ad esempio un sensore di temperatura ed umidità, per accendere o spegnere, a seconda della temperatura o dell'umidità, un vostro apparecchio. Quindi avete il condizionatore che bla bla, la stufa pellet che brucia troppo pellet, se, ecco, questo è il vostro gadget. Con questo e con, tra l'altro, una programmazione decisamente minima, perché c'è un'app che si installa sul telefonino già pronta per poterlo controllare, eccetera, avete il vostro interruttore comandabile da un sensore, che tra l'altro, adesso non mi vorrei sbagliare, ma anche questo ovviamente integra un ESP, per cui anche questo riprogrammabile, eccetera eccetera. Insomma, un gadgettino di quelli che costa relativamente poco, che costerà 7-8 euro, 9 euro, una cosa del genere, sempre così, da inserire sempre nella famosa rete IoT di casa. Ecco, costa infatti $7.50. Sì, quello da costa 10. 6,70 euro quello da 10 ampere, 7,80 euro quello da 16. Ho anche visto che si può mettere il sensore di temperatura, quello impermeabile, quindi potete usarlo per esempio per monitorare l'acqua dell'acquario. Dell'acquario, esattamente, infatti l'avessi già avuto, l'avrei fatto, perché il sensore ce l'ho, ma non questo, no, perché si è rotto il termostato del riscaldatore maledetto dell'acquario, adesso stasera dovrò comprarlo nuovo, accidenti. Ah, ecco. Ecco, quindi. Beh, se hai un Arduino a casa, te lo fai con Arduino. Sì, beh, con Arduino, accidenti, no, con Arduino no, lo faccio con un ESP, abbi pazienza. Ah, beh, giusto, è vero, scusa, non ti volevo offendere. Va bene, allora passiamo al prossimo oggetto. Io vado su oggetti relativamente costosi, ma per quello che fanno ne vale la pena. Parliamo di un portatile da 11 pollici, che, attenzione, adesso che non c'è più il MacBook Air in vendita, comincia a essere uno dei più leggeri sul mercato, e parliamo del Dell Inspiron 11 serie 3000. È un portatile da 11 pollici con colori molto carini, c'è bianco, blu o rosso. Ha dentro un Intel, un processore non potentissimo, un display tutto sommato accettabile, costa €219. Ha il disco da 32 giga, c'è già Windows 10 dentro, c'è uno slot per la micro SSD, quindi potete espandere la memoria con la micro SSD, e Wi-Fi, Bluetooth, e con l'alimentatore pesa 1,1 kg, quindi tipo 20 grammi più del MacBook Air. E ha una durata di batterie stratosferica, nel senso che io, per fare il test, visto che usciva con la casa, fa 8 ore di autonomia. Io che ho fatto? A parte che mi serviva metterci Linux, ci ho messo Linux sopra, ho aperto Netflix, gli ho fatto partire una serie TV con la batteria carica, ho staccato l'alimentatore ed è durato 11 puntate. E là, 11 puntate. 11 puntate con una luminosità dello schermo media, quindi non altissima, ma comunque 11 puntate da 40-45 minuti. Hai visto? E poi comunque, quindi, il prezzo non mi sembra così esoso. No, beh, ma visto che tu hai proposto robe da 4 euro, io vado sui 219. Vabbè, non è però personalizzabile, e così è, così ve lo prendete. ha un unico enorme difetto, solo uno che ho trovato che è fastidiosissimo: non ha LED di segnalamento. Non tanto per l'hard disk che gira, perché ormai è una moda, ma quello di carica. Cioè io non so quando lo chiudo, lo attacco all'alimentatore, se si è caricato tutto. Ah, questo, ciò non è bello. È antipatico, ma se voi la sera lo pigliate e lo mettete in carica, va. E ci ho messo sopra Linux, funziona praticamente tutto tranne alcuni tasti funzione, ma quelli fondamentali, quindi il volume e la luminosità dello schermo, funzionano. Quindi direi che è operativo anche per chi vuole un PC con a basso costo con un Linux dentro. Senti, ma che risoluzione ha il monitor? Oddio, 1024 per... comunque risoluzioni esagerate. Non è Full HD. Io per esempio che uso tanto per Twitter, TweetDeck là dentro è inutilizzabile perché la risoluzione è un po' scarsa, ma se volete guardarci la posta, fare dei test sulla rete, aprire prompt dei comandi e scrivere due cose su un documento va benissimo. Tra l'altro ci ho fatto dentro le slide del Linux Day mentre ero in aereo che tornavo dalle vacanze. Senza aprire Chrome, l'indicatore della batteria mi diceva 16 ore di autonomia rimaste, quindi è spaziale. Se lo volete usare in treno per fare i vostri documenti è eccellente. Ma mi piace molto l'idea, ma ti dico anche perché mi piace molto, perché io uso al lavoro un Dell con un monitor da 12 pollici, però ha una risoluzione altissima e mi cieco, cioè proprio cioè non si può lavorare a una risoluzione tipo, non so, 1900 su un monitor da 12 pollici. No, Giuliano, è che sei vecchio, è diverso, scusami, ma te lo dovevo dire. Uff, vabbè. Perché guarda, io devo essere sincero, a casa c'ho l'iMac da 27 e mi sono mangiato le mani perché l'anno dopo è uscito il 5K. Il 5K è un 27 pollici con una risoluzione davvero allucinante. Ora non so, vediamo se riesco a trovarlo in tempo reale. Allora, sì, però dai, 1980 su un monitor da 12 pollici, cioè ho capito. Allora, diciamo che sono cose per i sotto quarantenni, perché dopo i 40 la vista inizia a scarseggiare. Allora, aspetta, il 27, aspetta un po', vediamo se riesco ad andare. 5K è su 27 pollici e 5120x2080. Non ho mai provato a vedere una risoluzione così, però. È una di quelle cose che tu non vedi il pixel, cioè anche se ti avvicini il pixel non si vede. E ora stiamo divagando un po', ma a me piacciono questi PC con la risoluzione molto alta. Piuttosto metto il cratere di qualche pixel più alto, cioè metto il cratere al 120%. Sì, ho capito, cioè finché usi il sistema operativo va bene, però i programmi non sempre si adattano tipo se apri il cliente DS 400 ci va la lente per guardarlo. No, vedi, quello si può ingrandire il carattere. Però vedi, sul 12 pollici quello va bene, perché il carattere è bello grande, anche perché intanto la risoluzione della S, cioè quello che può fare il client della S400 sono o 80 colonne o 132 colonne, quindi no, più di tot i caratteri non ci sono, quindi va benissimo, guarda. Né più né meno, insomma. Bene, bene, bene. Allora, si compra direttamente sul sito Dell, arriva dalla Cina in circa una settimana. Ma bene, bene. Beh, senti, torniamo a prezzi un po' più accessibili per i regali di Natale. Allora, tornando nella galassia Espiana, come voi tutti sapete, lo sapete tutti, vero? Lo sapranno tutti, ovviamente, se ci segue qualcuno lo saprà. È uscito l'ESP32, che è il fratello maggiore del ESP8266, che ha, insomma, più potenza, più memoria, più Bluetooth, sono uscite in questo periodo anche una serie di dev board, cioè quelle schede che ci permettono di poterlo utilizzare un pochino più semplicemente, perché ovviamente il chip o comunque il contenitore in cui viene venduto il chip è un SMD, quindi difficile da saldare, bisogna farsi il circuitino o comunque bisogna comprare una come si chiamano quelle, comunque una board che metta i pin in modo utilizzabile. Ecco, sono venute fuori una board per dita umane, insomma. Sì, una board per dita umane o una board per protoboard umane, insomma. In pratica quello che è una node MCU oppure quello che è un Wemos D1, insomma, aggeggi di cui abbiamo già parlato. Ne sono uscite diverse, ce ne sono alcune, anzi ve le riportiamo alcune nei link, quasi tutte ovviamente in Cina. Si può segnalare, allora, a parte ce n'è una in particolare che mi piace molto, che è della Gravitech, che si chiama Nano 32, molto carina, ma più che altro perché mi piace l'estetica della board, insomma è una di quelle che è venute fuori prima. Ne stanno venendo fuori anche altre, di cui una della AI, che è uno dei principali produttori di board dell'ESP, quelli che hanno fatto l'ESP 01, 02, 03, 07, 10.000 versioni diverse. Una da segnalare è una della Olimex, che è l'unica che per il momento vende queste dev board e anche i moduli singoli in Europa, e poi ci sono le classiche di Adafruit, che sta anche in questi giorni presentando quella della famiglia Fitter, o come diamine la chiamano loro, Yuza, quella famiglia lì, con l'ESP32 a bordo. Ma quindi c'è già l'ESP sopra? Sì, in tutte quante le dev board c'è l'ESP già bello che è saldato, insomma sono pronte. Quindi è esattamente come la Wemos di uno. Sì, domanda, sì. Ma esuliamo un attimo dalla dev board, sto ESP32 è utilizzabile in modo facile come l'ESP, come l'altro, o ancora no? Allora, siamo nella versione, come possiamo chiamare, early adopter, quelli, sai, quelli un po' maniaci tipo io, che comprano queste cose qui appena vengono fuori, però c'è molto movimento, c'è più movimento di quello che c'è stato quando è uscito l'ESP, quando sarà un anno e mezzo fa, una cosa del genere. Forse due, cioè l'ESP è fuori da parecchio. Due. Ah, sì. Sì, perché io mi ricordo che ne avevano parlato a giugno alla Torino Mini Maker Fair, non questa, quella di prima. Quindi sì, sarà due anni. Mi passa il tempo, manco mi accorgo, ormai. E vedi, torno al fatto che sei vecchio. Sì. Comunque, ora mi odi e attacchi la conversazione. Sì, taglieremo qui la storia del vecchio. C'è movimento, allora intanto già si vedono i primi, anzi la Expressif stessa, che è il produttore dell'ESP32, ha già fatto un, come lo vogliamo chiamare, non porting, ma un ambiente o comunque delle librerie per farlo andare con l'IDE di Arduino, insomma. Ecco, si comincia già, perché in effetti sulla ESP vecchia il problema serio era che finché non è uscita l'interfacciamento con l'IDE di Arduino era veramente difficile. Sì, diciamo che probabilmente la Expressif stessa si è resa conto che se vogliono veramente far espandere l'utilizzo di questa cosa qua, devono sicuramente passare tramite quel settore lì, cioè il settore di chi ha conoscenze su Arduino e le vuole sfruttare per programmare anche questa cosa qua. Ma nel mondo dei maker hanno tutti quanti l'IDE di Arduino, sì, installato da qualche parte. Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono dei porting di Microsoft Python, funzionanti. È uscita addirittura una board ufficiale, credo, di MicroPython proprio in, non voglio dire bugie, ma forse ieri o avanti ieri, o la YPI, non mi ricordo che. Quindi sempre una dev board con l'ESP32 a bordo e con, diciamo, il MicroPython caricato, ma che facilmente si può ovviamente aggiornare con le nuove release, perché ovviamente siamo sempre in evoluzione con nuovi driver, nuove funzionalità, eccetera. Poi c'è un in lavorazione il porting di NodeMCU Lua, quindi quello classico che c'è già per l'ESP 8266. Sul chip, diciamo nudo e crudo, c'è già un interprete BASIC, per esempio, per gli amanti del Commodore 64 e MSX vari, che comunque è carino. Certo, non ci si può fare più di tanto, essendo un interprete BASIC, quindi vi lascio immaginare le funzionalità, però c'è, ci si diverte. Questa volta anche l'ambiente in C, che è, diciamo, quello che per programmare più a basso livello, è molto più friendly, nel senso che l'Esprisif ha messo su in piedi un altro ambiente che, se non mi ricordo mai, si chiama IDF o qualcosa del genere, che comunque è molto più maneggevole di quello che era prima la toolchain per programmare l'ESP alla fine. Quindi c'è un sacco di movimento, ecco. Le dev board, bene, quindi non è una di quelle cose che è uscita e si aspetta con ansia come usarla, ma si usa già. No, si sta già usando. Ah, guarda, giusto per rimanere in tema del Nintendo, ci hanno già messo dentro un emulatore Nintendo, quindi anche a posto, siamo sicuri che verrà usato. Esatto. Le dev board sono ancora un po' carucce, però caleranno di prezzo, ovviamente. Adesso queste sono le prime release, ma oddio, carucce, stiamo parlando di 20 euro, quindi... Sì, infatti nelle note tu hai scritto ancora un po' care, ho aperto la prima 20 euro, la seconda 15, ho detto Arduino, quello lì base, ne fa 35, quindi... ma sai, noi siamo abituati al Wemos che costa 3 euro, quindi sono un po' esatto, caro. Dopo ne parliamo di Wemos, perché sti fetenti me ne hanno combinata una, esatto. ma ne parliamo dopo. Bene, direi che a questo punto possiamo rimanere in ambito maker e parlare di una cosa che ho visto, che mi è piaciuta un casino, e che non si interfaccia con Arduino, ma è uno shield di Arduino con un ESP dentro. Si chiama Forduino 24 LCD, ha la forma dell'Arduino, e ha il Wi-Fi, ha il lettore di micro SD e ha un display a colori bellissimo. È grande quanto l'Arduino, quindi il display a colori è un 240x320 di, adesso non mi ricordo più, è un display touch. È fighissima, è proprio proprio bella. Funziona a 5 volt, a 3,3, ha 20 pin digitali input output, 7 per usarli come uscite PWM, 12 pin analogici, cioè potete farci la pasta asciutta. Cazzo. Praticamente lavora con l'IDE di Arduino e con un IDE suo di Forduino, e l'IDE di Forduino è già pronto con già le funzioni precompilate per fare IoT, ovviamente, e costa 70 euro più IVA, che è la nota dolente questa. In fondo, vabbè. C'è la nota dolente. No, tutto quello che è Arduino genuino, purtroppo i prezzi non sono bassi, perché non sono made in China, ma sono made in Italy o USA, e quindi diventa comunque più cara tutta la parte produttiva. Però secondo me i prezzi potrebbero abbassarli, ma loro, ne ho parlato con loro, loro hanno i prezzi un po' alti perché si devono anche pagare tutta la parte di gestione dell'IDE nuovo, del cloud, eccetera. Secondo me è una delle due opzioni: fai pagare poco la scheda e fai un abbonamento sui servizi, oppure fai pagare di più la scheda e il servizio ce l'hai gratis fin tanto che la scheda funziona, essenzialmente. Ma guarda, allora, vista così in foto è bella, si può dire bella. È proprio bella, sì, è proprio bella. E poi tra l'altro è, sì, allora diciamo così, volendo questa tu la rifai, no? Mettendo i pezzi insieme la rifai, perché prendi un lettore di SD, prendi un ESP, prendi un Arduino, metti le CD, metti tutto insieme e la rifai, però non ha la stessa solidità, secondo me, ecco. Devi saldare, devi metterti lì con i componenti, poi devi verificare che le resistenze siano quelle giuste, devi fare un sacco di roba, sì. Che secondo me crea delle difficoltà, cioè ci metti del tempo, visto che tendenzialmente anche il tempo dedicato al hobby può essere denaro. Se tu sai che per ottenere la stessa cosa ordini in Cina, aspetti 60 giorni e spendi 30 euro e poi ci devi mettere 4 giorni di lavoro, oppure ti compri questa che è spedita dall'Italia, dopo 2 giorni ti arriva e funziona già, hai già fatto un grosso passo in avanti. È ovvio, sì. Che costa di più. Sì, sì, sì. No, guarda, questa ecco, diciamo che la vedo al passo successivo del prototipo. Cioè, il prototipo puoi fartelo con i pezzetti messi insieme, però questa è una di quelle cose che quando decidi poi che quello che volevi ottenere l'hai ottenuto, compri una di queste e hai una cosa più solida, ecco. E soprattutto hai già un IDE fatto pronto, con le funzioni pronte per farla funzionare. Cioè non devi diventare matto a capire come funzionano le librerie per il display, esatto. Di là funziona già tutto. Ora non l'ho studiato profondamente perché non l'ho comprata, ma mi immagino, voglio piazzare un indicatore a barra da 0 a 100, gli dai i parametri, lui te lo fa, te lo costruisce, te lo aggiorna. Esatto, sì, sì, beh, sì, su questa filosofia ci sono diverse cose anche per Arduino e per ESP, tipo Blink, di cui abbiamo già parlato un'altra volta, che fanno questa cosa qua, però ti ripeto, questo secondo me, ma anche vedendolo e anche valutando il prezzo, oddio, è il più IVA che mi sbilancia un po', però... E sul sito di Arduino sempre, non ho mai capito perché, ma Arduino è come se dovesse vendere sempre solo a aziende, è tutto più IVA. Sì, sì, dico, mi sbilancio un po' quel 20% in più, perché i 70 euro probabilmente ci sono, ecco, ci stanno. Quel 20% in più probabilmente mi piace un po' meno, però ti ripeto, potrebbe essere una cosa per cui... cioè questa la vedo più magari per... ecco, ho fatto un progetto, ho terminato il progetto, voglio, come si può dire, consolidarlo, ecco, prendo questa qui e sono a posto. Bella, però bella, bella. Sì, sì, sì, guarda, l'ho vista per caso, perché dopo tutta la questione di Reunion, Arduino, Genuino, di qua di là, sono andato sul sito e volevo vedere. Stai a vedere che ora si sono messi d'accordo e vendono l'Arduino 0, quello lì base, con l'ESP dentro, perché l'Arduino, quella che si è separata da quella che ora è Genuino, quindi l'Arduino non Banzi, è andata molto avanti sulle schede e ha tirato fuori questa Arduino basilare Wi-Fi programmabile over the air, che è una figata pazzesca. Cioè potrebbe sostituire tranquillamente il mio Yun, uh-huh, che uso per il consumo della corrente, banalmente perché fa tutto quello che fa lo Yun a livello di programmazione remota, anzi quello che la mia versione di Yun non fa, perché non funziona. Ecco. E costa molto meno, e cercando ho trovato questa cosa e mi si... sai, la faccina con gli occhi a cuore, ecco, così. Ok, la tua faccina con gli occhi a cuore e il tuo portafoglio che si ritrae. No, cioè, che io cerco di prenderlo e lui è scappato. Esatto. Va bene, dai, passiamo al prossimo. Allora, aspetta che sono un attimo distratto dalla scheda. Allora, il prossimo è veramente un quello che io dico un gadgettone, ok? Una di quelle cose che ti compri per, non so, per soddisfazione personale, ma neanche una, non so, per così, perché vuoi farlo, ecco. Allora, si tratta di un cubo LED che è completamente da montare, quindi in kit, cubo LED 8x8x8, quindi ci sono un tot di LED da montare, che è riprogrammabile, che costa anche relativamente poco, tipo, aspetta che non mi ricordo, ma questo l'ho comprato ed è anche già arrivato, ma non lo sto montando io. Questo è ecco, 15,50 euro, voglio dire, 15,50 euro non ci si comprano manco i LED, vedete voi. Ha un suo controller per comandare tutta quanta questa bella ambaradan di LED, ha un suo programmino scaricabile dal sito del venditore, per poi farci altre figure, quindi ci si possono costruire diverse, è un gadgettone, diciamoci la verità, è una di quelle cose per amanti dei LED, delle lucette che si accendono, si spengono, le animazioni, insomma, queste cose qua. I LED, insomma, non sono... direi che per Natale è perfetto. Sì. Chi non vuole mettere un cubo LED così sulla cima dell'albero al posto del solito pennacchio? Certo, ci si può fare la stella in 3D che ruota, dai, diciamoci la verità, è bellissimo. Siamo veramente malati, vabbè, non importa. Beh, comunque vi posso dire, allora, questo gadget mi è stato richiesto espressamente da mio padre, che è un come dico sempre è un maker ante litteram, e mi ha detto: guarda, ho un po' di tempo da passare, comprami questo. Però si è già pentito perché ci vuole veramente tanto tempo per assemblarlo e tanta attenzione nel saldare questi LED, che in pratica sì, tu devi prepararti una maschera su cui metterli per poi saldarli, però comunque non è assolutamente semplice, ed è una cosa per pratici del saldatore, quindi chi non ha grandi doti nel saldare i componenti, insomma, non lo vedo bene. Ok, quindi è per chi ha la passione anche del saldatore. Devo essere sincero, visto dal sito pensavo che arrivasse già montato, e invece no. Ok, grazie per avermelo detto. Però non arriva montato, però dentro ci sono tanti LED di ricambio nel caso in cui qualcuno si bruciasse nel frattempo. Beh, con quello che costano i LED ci mancherebbe. Anche perché insomma. Anche perché bisogna provarli... mentre li stai montando piano per piano, perché poi sfido chiunque a dissaldare il LED che sta in mezzo, che non funziona. Che libidine. Allora, consiglio per chi lo vuole comprare: comprate 5 cubi, che non è mai troppo tardi. Sì, esatto. Bene, bene. Allora, passiamo dal maker spinto al router. Allora, io sono sponsor fan, no, sponsor no, perché non mi danno neanche un euro. Sono fan del router board MikroTik. MikroTik, forse ne ho già parlato qualche puntata fa, è un'azienda della Lituania, da quelle parti là, insomma, che ha fatto questi router a altissime performance e bassissimo costo. Tenete conto che in zona aziendale, se voi comprate un router Cisco, il router Cisco fa 15.000 euro. Se comprate un router MikroTik che va più forte del router Cisco, spendete 1.200. Essenzialmente il rapporto è quello. MikroTik fa anche le schede per casa, nel senso, per quello che loro chiamano SOHO, Small Office Business, Small Home Business Office, una roba del genere. Insomma, Small Office Home Office. Bravissimo, grazie. Mi hai salvato. Allora, fanno questi router. Io ne ho uno a casa della serie precedente. Allora, sono complessi perché l'interfaccia dentro è di una complessità che può lasciare spiazzati, ma fanno anche la pasta asciutta, cioè voi potete definire una singola rete per ogni porta, definire le regole di route tra una porta e l'altra, potete fare fino, mi pare, a 4 access point wifi diversi con le regole di route e l'indirizzamento per ogni singolo access point. Io per esempio ho la rete per casa e la rete per gli ospiti, e la rete per gli ospiti non va sulla rete di casa ma va solo su internet, con una limitazione di banda. Insomma, potete fare davvero davvero la pasta asciutta. Sono alimentabili PoE da una singola porta con il loro alimentatore, purtroppo non è PoE standard, ed è uscito da qualche mese la nuova serie 5 GHz, perché la serie vecchia è solo 2 e 4. Senza scendere troppo nel dettaglio, 2 e 4 funziona molto bene, ma in un palazzo dove gli appartamenti sono tanti, le frequenze del 2 e 4 sono sovraffollate e soprattutto i canali che non si sovrappongono tra di loro del 2 e 4 in tutto lo spettro sono 3, perché se voi vi guardate la frequenza del wifi, i canali vicini si sovrappongono, quindi si può usare solo un canale ogni 3 ed è un po' un casino. È uscito il 5 GHz che tira di più, che va più forte, che se non mi sbaglio consuma anche meno, ma questi dispositivi consumano veramente poco, e accattatevilo, costa anche lui una sessantina di euro su Amazon, oppure potete comprarlo direttamente dal sito routerboard.com. Attenzione che se siete patiti di router o di queste cose qua, sul sito routerboard potete trovare l'impossibile, perché c'è davvero l'impossibile, le antenne direzionali per fare la wifi tra casa vostra e quella dell'amico, insomma c'è roba interessante davvero. Allora io ho due domande. Allora, ma questo fa anche il content filtering, sì no? Allora, fa content filtering basato su una lista, una whitelist o una blacklist, ma che li devi impostare tu a mano. Se vuoi fare content filtering serio con liste aggiornate in tempo reale, mi pare che lo faccia Squid. Però Squid è un software che devi installare su una scheda, su un Raspberry, e devi metterlo in serie al tuo router per evitare che venga bypassato. Insomma, ma voi mi volete aiutare o non mi volete aiutare? Perché, cioè, voi non mi volete aiutare a mettere un filtro a casa mia per arginare il internet per la figlia. Per mia figlia. Cioè, dai, voi non mi volete aiutare. Aiutatemi, per favore. Allora senti, facciamo così, io in azienda uso un coso che si chiama WatchGuard, ma WatchGuard 1 è caro. Appunto. Cioè, per casa non va bene. Due, ha un abbonamento a pagamento, se no queste liste non vengono aggiornate. No. Allora, e quindi no. E io estenderei l'invito agli ascoltatori. Ascoltatori, date una mano a Giuliano e tirate fuori un sistema non da installare sul PC, ma che protegga tutta la rete, che faccia da content filter, in modo che io possa che lui possa impostare le categorie alle quali non si può accedere e a quelle non si accede. Io però, attenzione, mi è venuta in mente una cosa. Mi appoggerei a OpenDNS. Conosci OpenDNS? Il nome non mi è nuovo, ma adesso mi sono impreparato. OpenDNS è un servizio, ora andiamo un po' fuori tema, ma magari aiutate anche gli ascoltatori, che fa da DNS esattamente come Google. Ok. Ma se tu ti registri e gli fornisci da dove arrivi tu, forse funziona anche su IP dinamico, bisogna vederlo, lui come DNS ti blocca la navigazione per categorie ed è gratis. Cioè, ecco, tu gli dici: non voglio che da questo IP pubblico si vada su siti porno, tu passi a tutti i dispositivi tramite DHCP e tu suppongo che abbia il controllo del DHCP server della tua rete come DNS, quelli di OpenDNS. A questo punto chiunque usi OpenDNS sulla tua rete, su quella categoria non ci va e compare il bollino navigazione filtrata. Allora, quindi, aspetta, perché io già sto pensando come applicarla questa cosa qua, Allora, quindi, io ho il mio router che è Wi-Fi, perfetto. Allora, io derivo un bel attacco Ethernet e ci attacco un altro access point, ok? Questo access point ha un'altra chiave per il wifi. No, aspetta, ma tu vuoi limitare solo per tua figlia o per tutta casa? Ma secondo te mi limito al porno, scusa, abbi pazienza. Ok, niente. scusa. Sì, allora, ti compri un MikroTik. Ti configuri le due reti wifi su MikroTik, ecco. Dai la password del wifi protetto a tua figlia. Perfetto. E in quel wifi dici che il DHCP assegni come DNS, esatto, soltanto i DNS di OpenDNS. Poi fai un'altra regola dove blocchi tutte le porte di richiesta DNS per tutti tranne che per OpenDNS, così lei se si cambia il DNS sul telefono e mette 8888 perché cerca su Google, le richieste DNS di 8888 non passano. Caspita. Aspetta, allora. A questo punto dici a OpenDNS che la navigazione deve essere filtrata e secondo me dovrebbe funzionare, ma bisogna vederlo. Ascoltatori, se ho detto una stronzata, per cortesia nei commenti ditemelo. Però questa storia qui comincia, io lo volevo fare più maccheronico, no? Cioè metto un altro access point in quel DHCP, metto il DNSX, quindi però in effetti se lei cambia il DNS e mette 888 lo bypassa, sì. Giusto, ma deve essere già abbastanza smart. Ma guarda, però ti direi la verità, il giorno in cui lei bypassa questo e mette la tua, allora gli do la password del wifi completo. Allora senti, fai così, c'è OpenDNS Home Internet Security, è gratis e ti fa questo tipo di filtro qua. Ah, caro Francesco, questa è una puntata come si può dire, ricca di spunti. Allora, dopo la puntata ti lascio l'indirizzo di casa dove tu provvederai a spedire bontà tipiche sarde, ok? Ok, ci sto. Sai, il pagamento in natura cibo. Guarda, non c'è problema, posso mandarti delle cose tipiche perché... adesso sto lavorando in outsourcing per un'azienda, quindi che fa cose, insomma, cose buone dal mondo. E non è la Galbani, perfetto. Non è la Galbani, perfetto. Anzi. Abbiamo capito perfettamente come tu puoi ringraziarmi con questa ditta, che tra l'altro è arrivata tardi, perché tu mi hai parlato di questa cosa, almeno un mese e mezzo fa, se non di più. Beh, sì, ma comunque, diciamo che ci sta. Perfetto, allora sì, c'è il Family Protect, bla bla bla, puoi lavorarci. Bene, sono contento. Ah, e questo già è una buona cosa, puntata fruttuosa. Molto bene. Bene. Allora, siamo passati dal MikroTik, tocca a te con questo oggetto qui è pericolosissimo. Questo è veramente, veramente pericoloso, perché parliamo di un gadgettino di cui siamo già addicted, possiamo dirlo? Sì, assolutamente, solo che è sempre stato nella fase di costo molto alto. Tra l'altro è out of stock, quindi attenzione, in EU è out of stock, se lo compri in Cina si può comprare, va bene, peccato. Vabbè, diciamo che è un freno per gli acquisti compulsivi. Insomma, mora della fava, parliamo del Pebble 2 che dopo aspetta. Successo. No, tu ti stai sbagliando, no, non è il Pebble 2, devi salire ancora un po' più su nella... Ah no, sono io che mi sto sbagliando. Niente, scusami, ti ho interrotto. Vai con il Pebble 2. Ok. No, stavo pensando all'oggetto dopo. Ah, ok. Procedi con il Pebble 2. Ecco perché ti dicevo che già siamo addicted, perché comunque ce l'abbiamo al polso tutti i giorni, quindi pensa tu se possiamo più farne a meno di questa cosa qua. No, non ce la farei mai. quindi, dopo l'enorme successo su Kickstarter, a parte le polemiche sul fatto che si possa fare un Kickstart per una cosa che praticamente poi venderai, insomma, quindi ti fai finanziare da quelli che sì, poi te lo comprano. Diciamo che giri il rischio di impresa sul consumatore, che non è una cosa proprio pulita. Sì, in effetti non è bellissimo, però l'oggetto che ne è venuto fuori è, come sempre, invece bellissimo. E tra l'altro io pensavo lo dessero a prezzi molto più alti di quello che invece poi hanno tirato fuori. Comunque il Pebble 2 è un'evoluzione del Pebble, ma diciamo del Pebble Time, perché comunque è a colori, ed è un pochino più orientato per il fit, cioè per tutte quante quelle cose tipo conteggio delle pulsazioni, quanti passi fa, cioè non è esattamente una cosa per cui, cioè queste funzioni non riguardano esattamente la mia persona, non le userei tanto queste funzioni qua, però non si sa mai, ma io diventi sportivo e quindi probabilmente lo comprerei prima nella speranza di diventare un po' più sportivo. Come sempre, è un oggetto che ha un. O meglio, per quello, almeno quel modello che piace a me, che è quello comunque l'erede dello Steel, cioè quello in acciaio, non quello in plastica, ha sempre un'estetica molto bella, curatissima. Tra l'altro ci si possono attaccare altri accessori, perché dietro ha una porta che gli consente l'attacco di altri accessori, per cui è espandibile, diciamo così. Però, se non erro, è ancora in bianco e nero il Pebble 2, vero? No, oddio, io l'ho visto a colori, ma no, è il Time che è a colori. Il Pebble 2 è bianco e nero. Ma dai, mi sono sbagliato clamorosamente. Yes, e a colori sono il Time, il Time Round, ma il 2 è il 2 SE, che è quello senza il coso per il battito. Sono no, aspetta, allora il loro sito è ingannevole, perché se io vado sullo shop, diciamo così, e volessi comprarlo, io vedo un Pebble Time 2, sì. Ok, va bene, insomma, io sono sempre quello che tira verso l'alto, perché questo costa sempre di più del Pebble. Ok, va bene. Allora. Ah, ma il Pebble Time 2 è quello ancora non disponibile? O c'è ancora? Perché io No, è in pre-order, sì. Ok, che tra l'altro io ho il Time, e rispetto, cioè il Time 2 ha il display molto più grande, e la cornice molto più sottile, è proprio bello. È quello, sì, infatti è quello che ho visto io, quindi quello in effetti che sì, a cui io aspiro, diciamo così, è il Pebble Time 2, che appunto ha tutta quanta questo ambaradan di possibilità. Se non mi sbaglio, c'è anche il microfono, per cui se non mi ricordo male, si può rispondere anche alle chiamate col microfono, vero? C'è, allora, non so se rispondi alle chiamate, però fa il text to speech. Che guarda, che sarebbe già una figata terribile, soprattutto in macchina, viste anche le nuove norme che stanno uscendo. Sì, infatti. Tra l'altro, vedo che il Pebble Time Standard non c'è più. C'è soltanto il Time Steel. Sì. Credo l'abbiano, come si può dire, segato. E il Time Steel costa un sacco di soldi. Ma, oddio. Ma il Time Steel, aspetta, non il 2? Cioè il Time Steel, quello l'uno, quello a colori? Il Time Steel vecchio costa 220 euro. Sì, ma infatti, sinceramente non... Ma guarda... probabilmente faranno un'inversione di prezzi, secondo me, e cioè adesso questo è in pre-order e costa 180 sterline, quindi sì, costa 230 euro, ecco. Ma la sterlina non era scesa, non possiamo prenderlo quando c'è la sterlina a tipo... No, se tu lo compri dall'Inghilterra lo compri al cambio attuale della sterlina. Appunto, dico, magari facciamo uno studio e vediamo quando la sterlina scende, pac, mettiamo l'ordine in quel momento. Infatti. Adesso è in pre-order, però non vorrei che poi venisse fatto uno switch tra lo Steel e il Time 2, per cui lo Steel andrà a costare 180 sterline e invece quell'altro andrà a costare o meno, e invece il Time 2 nuovo andrà a costare magari 200 e passa sterline. Può essere, non adesso chissà, chi lo sa. Comunque, secondo me adesso, se avete la voglia di comprarvi il Pebble Time, non comprate lo Steel, non ne vale la pena. Aspettate l'altro, oppure comprate il Pebble 2, che tra l'altro è molto bellino, è solo in bianco e nero. Se non erro, comunque il firmware è lo stesso del Time, quindi hai comunque la barra del tempo, hai comunque il microfono. Sì. E il design è un po' più bello del primo Pebble. Tra l'altro ha questo bicolor che è proprio carino. Sì, ma guarda, soprattutto è la storia della cornice che mi è piaciuta, che è un pochino più sottile dell'altro. Insomma, Sì. No, hanno migliorato e evoluto. E tra l'altro il Pebble 2 con il battito costa 129 euro. Andate a comprarlo un Apple Watch con quella cifra lì. E il Pebble 2 SE, che è quello senza il battito, costa 99 euro, cioè costa 100 euro. Ed è disponibile da novembre, quindi arriva a pochissimo. Io, se volete cominciare nell'epoca degli smartwatch, il Pebble 2 SE è l'oggetto giusto. Sì, anche perché, diciamoci la verità, ricordo che la batteria di questi affari, dei Pebble, dura 7 giorni. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma vogliamo fare il confronto con quanto dura un Apple Watch? Qualunque altro, no, ma anche non solo l'Apple Watch, anche gli smartwatch Android. Ah, sì, sì, sì. Non certo. Hanno il display e-ink, e quindi la batteria dura comunque 24-36 ore. E io devo essere sincero, il fatto che la batteria duri così tanto fa sì che io mi possa permettere di tenere il telefono al polso anche di notte, lo uso come sveglia, che è una figata pazzesca. Assolutamente. Io idem, amo il Pebble per la durata della sua batteria, diciamoci la verità. Oltre che per il fatto Oltre che per il display è sempre acceso. Oltre che per il display sempre acceso e che è visibile in qualsiasi condizione di luce, diciamocelo, perché io ho avuto a che fare con altri smartwatch di marche Android, però mai ho avuto a che fare con l'Apple Watch. L'Apple Watch l'ho visto, l'ho provato 10 minuti ed è un gran bel orologio, non c'è niente da immagino. Tecnicamente è una roba spaziale, ha questo difetto della batteria che dura poco, pazienza. Non si può mica avere tutto, hai ragione. Esatto. Va bene, comunque, insomma, mi piace tantissimo, sono tentato dall'ordinarlo in pre-order, ma penso resisterò. Va bene, allora direi che possiamo passare, aspetta che a questo punto mi ero perso nei... Ah, ecco, perfetto, io torno alla questione dei maker, e torno all'ESP e vi consiglio, perché è una figata, la Wemos D1 Mini. Hanno fatto la D1 Mini Pro, che se non erro consuma un po' meno e ha invertito l'ordine dei pin, essenzialmente, questo è quello che è cambiato. Quindi se avete gli shield della D1 Mini vecchia, forse non vanno con la D1 Mini normale. Cos'è la Wemos? È una schedina con una bellissima porta micro USB che attaccate al PC, ci programmate il chip ESP con l'IDE di Arduino e costa 4 euro. Guarda, le uniche altre due cose che sottolineo della versione Pro, perché ci avrà un suo perché il fatto del Pro, è che allora intanto l'antenna integrata, anche l'altro aveva l'antenna integrata, però aveva l'antenna integrata disegnata sulla board. Questa ha un'antenna ceramica che garantisce un pelo di prestazioni in più, però soprattutto ha l'attacco per l'antenna esterna, che invece quella ti garantisce un raggio più ampio, soprattutto perché ci puoi mettere un'antenna direttiva o direttiva o direzionale, come la vogliamo chiamare. Io la chiamo direttiva dai tempi del però ti limita parecchio sul dove cioè devi definire bene, cioè devi posizionarla. Sì, assolutamente, però aspetta, allora puoi metterci un'antenna omnidirezionale e già quella ti dà un po' di raggio in più rispetto all'antenna ceramica, che comunque è veramente microba. Però se io dovessi mettere, guarda, faccio un esempio, un Wemos su un serbatoio da qualche parte e avessi necessità di riceverne il segnale un po' da una certa distanza, probabilmente non ce la farei con l'antenna omnidirezionale. Con un'antenna direttiva invece probabilmente riesco a fare magari anche un chilometro, quindi insomma c'è un suo perché nel fatto che abbiano messo anche un attacco per l'antenna esterna. È interessante per bene bene cose. No, devo capire questa faccenda dell'inversione dei pin, perché mi ha disturbato, perché sono esattamente al contrario e quindi in teoria gli shield vecchi non vanno più. Beh, sì, aspetta, mi pare di aver letto qualcosa da qualche parte, perché hanno fatto così non mi ricordo. Un motivo c'è, adesso però non ce l'ho presente. Sostanzialmente devo dire che è una cosa per cui, cioè, ecco, mi sento di consigliarla a chi ha bisogno di questa cosa qua, cioè dell'antenna esterna, perché... Il fatto è che l'altra non c'è più, eh? Cioè l'altra forse c'è ancora qualche fondo di magazzino su AliExpress. Ma dai? Sì. Ma... Non c'è neanche più la pagina sul sito di wemos.cc. Non si fanno queste cose, cara Wemos... Avvisaci, perché queste cose non si fanno, non puoi togliere i prodotti che a noi ci piacciono tanto senza dirci niente. Abbiate pazienza. Esatto. No, soprattutto che uno fa lo studio, fa il progetto, bla bla bla, e poi cambia tutto. Esatto. È la durissima vita dei maker dannazione. Però... Va bene, vai Giuliano, passa alla prossima cosa, che era quella che stavo per introdurre io, che era in autostock per fortuna, perché bla bla bla bla bla bla. Prego. Allora, io adesso penso di fare una brutta cosa a tanta gente, perché io so che tanta gente poi andrà a comprarla, io questo già me lo immagino. Allora, chi non vorrebbe una stampante 3D a casa sua? Chi non la vorrebbe? Diciamoci la verità, chi non la vorrebbe? Chi ha lo spazio per metterla la vorrebbe? Bene, allora... No, no, la vorrebbe anche chi non ha lo spazio, fidati. Ah no, sì, aspetta, giusto. La vorrebbe anche chi non ha lo spazio, ma non ha lo spazio per poterla avere. Ok, questo è un messaggio subliminale per Mario. Mario, fai spazio a casa tua. Esatto. Bene, una stampante 3D modello, diciamo, le stampanti 3D hanno diverse fattezze. Ok, c'è la Delta, c'è questa è la fattezza che si chiama Prusa, non so chi l'abbia inventata la prima, comunque è una stampante 3D a tutti gli effetti, con possibilità di montare diversi tipi di filamento, bla bla bla, ma che cos'ha di bello questa stampante? Il prezzo. Il prezzo, perché sul sito che noi vi lasciamo lì come link nelle note della puntata, in questo momento purtroppo è out of stock nel magazzino europeo, però costerebbe ben 173,09 euro. Il .09 allora, mi disturba un po', perché la preferirei a 173 euro, però uno se proprio occorre si sacrifica e allora acquista. diciamo così, adesso io ho aperto il sito, la promo del 44% di sconto finisce fra 5 ore e noi non saremo fuori fra 5 ore. Ah, che peccato. Ma comunque, se la comprate in Cina e la pagate non 142 euro come vedo adesso sul sito, ma 210, è economica comunque. Però, cioè, senza nulla da aggiungere. Cioè, aspetta, allora la promo per la Cina finisce entro 5 ore, però quella in Europa il prezzo è quello e non vedo promozioni, tranne il fatto che sia out of stock. Però chissà che quando viene fuori la puntata non sia di nuovo in stock, chissà. Ah beh, se è così, tanto di guadagnato per chi li compra. Dunque, sì, loro dicono che è 59% off, vediamo quanto può durare. Perché il discorso del comprarla in Cina, 142 euro qual è? Dipende quanto siete fortunati, perché se siete fortunati, ma il pacco non è così piccolo da passare inosservato alla dogana, arriva no, 142 euro. L'IVA ve la aggiungono, perché quindi, tanto chi la compra la mette, quindi dovete contare un 22% di IVA più tutte le spese, che saranno altri 10-12 euro, e quando il corriere arriva tenete conto che dovete tenere i contanti con tutte le monetine possibili, perché il maledetto corriere non vi dà il resto. Certo, assolutamente. Quindi comunque guarda, io quando vedo queste cose qua che provengono dalla Cina e di cui sospetto il coinvolgimento della dogana, calcolo sempre un 30% in più, almeno, sì, sì, sì, sì, sì, almeno. Così sto tranquillo. Quindi, tornando al discorso del 30% in più, viene fuori che costa quanto, anzi forse costa più che comprarla in Europa, quindi io attenderei lo stock europeo nella speranza in cui costi come dicono qui, quindi 170 euro. Mi piacerebbe tanto comprarla, però veramente ho una pila di roba da dover utilizzare, e la stampante 3D sarebbe quell'in più a cui non potrei far fronte. come tempi. Far fronte economicamente magari si potrebbe anche prendere, però no, tieni conto che comunque progettare un pezzo da stampare in 3D non è cosa facile, cioè non è proprio ma guarda, però apro una parente su questa cosa qua, e allora speriamo che non sia quella zia che parla 6 ore di fila. Vabbè, scusa, basta. Sì, sì. No, parentesi veloce. Che ho seguito su Twitter in questi giorni, e c'è un CAD che si chiama OpenSCAD, che a quanto pare ha una curva di apprendimento molto molto molto rapida, e che permette di fare delle bellissime cose con il 3D. Ovviamente è orientata anche alla stampa 3D, quindi probabilmente si riuscirebbe ad utilizzare anche velocemente. Oppure c'è un altro bel softwareino che poi magari possiamo anche linkare se ritrovo il link, che praticamente è un CAD 3D con la forma, cioè con la programmazione a blocchi. Non so se è presente Scratch o App Inventor, insomma quel tipo, sì, quella tipologia. Ecco, questo è un CAD con quella tipologia di programmazione lì, cioè tu a blocchi disegni il tuo pezzo in 3D. Io l'ho provato e si fanno delle cose belline, molto semplicemente, quindi probabilmente anche questo, ovviamente si può far venire fuori il file da mandare alla stampante 3D, quindi probabilmente potrebbe anche essere anche quello un'alternativa, almeno per i primi tempi, per far funzionare la stampante direttamente, per non avere il fiato sul collo della moglie che dice sì, ma l'hai comprata, ma ancora non ci hai mica fatto niente. Hai ragione. Capito, guarda, sono cose che capitano, non c'è niente da fare. Noi poveri maker casalinghi. bene. Abbandoniamo i rischi delle stampanti 3D per passare in macchina. Allora, ho trovato su un sito che si chiama, è bellissimo, si chiama Icarus, Icarus alla fin fine. E allora, loro ti vendono un progetto che tu puoi comprarti a pezzetti per farti la tua autoradio connessa in macchina. Allora, l'autoradio deve essere una 2 DIN, quindi quelle di alte. Loro ti vendono la scheda madre dell'autoradio. Ti vendono, se vuoi, la scheda del sintonizzatore, la scheda del DAB, tutte le espansioni che ci puoi mettere, e ti vendono, se lo vuoi, anche lo chassis a forma giusta di doppio da mettere in macchina. Quindi nessuno vieta che ti compri la scheda, ti costruisci con la stampante 3D che hai comprato prima. Esatto. Il connettore DIN e te lo metti nella tua macchina con il DIN standard. Ha anche l'interfacciamento con il Raspberry. Quindi potete farvi la radio connessa con il Raspberry piuttosto che con Android, con qualunque cosa, e ci fate quello che diavolo vi pare. Al posto di comprarvi la macchina con il display figo, ovviamente tutto bello montato, che fra 2 anni per aggiornare il navigatore GPS dovete spendere 500 euro. Esatto. Dunque, gli ho dato un'occhiata veloce. Allora, intanto posso dire a cuor leggero che mi salvo, perché la mia macchina non ha lo spazio dei 2 DIN. Quindi non la compro. La mia neanche, però in effetti vendono un adattatore che tu puoi smontare parte delle bocchette dell'aria per farci stare la 2 DIN. Ok, siamo morti comunque. Bene, però ecco, l'unica cosa che non mi è piaciuta è che la radio sia solo FM, cioè non c'è la radio digitale. Ma secondo me, se compri il Raspberry, puoi farci qualche cosina di più. Ah sì, anche secondo me, credo che ci sia. E sei sicuro che non ci sia l'espansione DAB? Però vabbè, diciamo che sulla board non la vedo, quindi c'è solo scritto FM radio with RDS, quindi allora c'è l'adattatore per l'OBD, c'è la camera, allora c'è l'hub USB, c'è l'amplificatore a 4 canali, c'è la micro SD, c'è il Raspberry, aspetta che sto guardando i connettori DIN. No, in effetti non c'è il DAB, c'hai ragione tu. È vero, è vero. Insomma, ecco, diciamo che probabilmente se ci metti il Raspberry, un dongle per Raspberry lo trovi. Devi vedere se fanno il sintonizzatore DAB già fatto, perché penso che la tecnologia sia un po' complessa. Comunque la scheda basilare senza niente costa 99 euro. Sì, no, la scheda base non è carissima. Però non so. In effetti, cioè adesso comprarsi una radio senza il DAB è un po' come comprarsi lo stereo per casa senza il lettore CD. Ecco, esatto. Cioè, insomma, è un po'. Ecco, cioè, diciamo che il modello base, cioè la board base, forse senza il Raspberry non ha. Beh, aggiungi 35 euro, metti il Raspberry e fai contento Mario, metti un prompt dei comandi sul display della radio. Esatto, per cercare la radio devi fare una query, per cercare la stazione. Esatto, si offenderà tantissimo che lo pigliamo per i fondelli, sì, ma va bene, dai. Così. Dai. È per ricordarcelo. Va bene, vai Giuliano. Allora, passiamo al prossimo. Bene, antefatto, abbiamo comprato la cameretta nuova per la figlia, abbiamo montato la cameretta, eccetera, mancava una lampada per il comodino. Potevo comprare una semplice lampada di quelle tradizionali per il comodino della bambina, così, senza nessun tipo di... funzionalità aggiuntiva. No, aspetta, fermo. Tu hai comprato la lampada per il comodino della bambina con il Bluetooth che si comanda da app? No, aspetta. No. Allora, diciamo che questa purtroppo l'ho vista in un secondo momento, altrimenti avrei comprato questa. Ah no, perché quella lì che hai linkato su Amazon c'ha il sì, Bluetooth. Sì, esatto. Allora, ne ho comprato... Allora, è venuta fuori la storia che bisognava comprare la lampada per il comodino della nuova camera. Quale lampada compriamo? Questa qui no, quella non mi piace. Ho detto, bene, senti, oggi su Amazon c'è una lampada in offerta, funziona così, e cioè c'ha il dimmer, quindi puoi regolare il livello della luminosità su tre step diversi, e poi... la tocchi in un'altra maniera e parte con la generazione dei colori, poi quando arriva il colore che vuoi tu la stoppi, eccetera. Insomma, comunque è una lampada un pochino più particolare, dai, non la solita lampada con l'interruttore a peretta come ce l'avevamo noi da piccoli, insomma, sul comodino. Guardando questa lampada nei giorni dopo averla ordinata, perché tra l'altro l'ho presa in un'offertona pagata 15 euro, arrivata bellissima, piaciuta tantissimo, quindi ma guarda, forse potremmo anche metterla anche questa come link, perché è un pochino più economica di quella di cui parlerò adesso. Ah no, perché ora quella lì che hai linkato su Amazon fa 55, sì, quasi. Sì, infatti, allora, quella che ho preso io l'ho presa in offertissima, tipo 18 euro, e adesso ne costa tipo 25-26. Però invece questa, che è un pochino più particolare, che è, tra l'altro ha le stesse funzionalità di cui ho parlato prima, e cioè dimmerabile, fa tutti quanti i suoi bei effetti luminosi con i colori, eccetera, però oltre a questo ha la sveglia, quindi integrata con la lampada. La lampada funziona anche come altoparlante Bluetooth, in pratica, quindi ci puoi sentire. Ci puoi anche rispondere al telefono, se ti va sul comodino collegata al telefono, ci rispondi al telefono. E funziona anche come lettore MP3, perché ha un lettore per le micro SD praticamente dietro, quindi tu inserisci la micro SD. Se non ricordo male, ti puoi svegliare anche con la tua canzone preferita. Questo è credo che sia uno dei sogni di tutti: la mattina ti svegli con o con la tua canzone preferita o con il cinguettio degli uccelli. Come ti svegli tu la mattina? Con il cinguettio degli uccelli, vero? Giuliano, il sogno di tutti è quello di non avere la sveglia la mattina. No, fidati. Sì. No, io ho la sveglia che vibra sul polso, c'è l'orologio. Ah, giusto, anch'io, è vero, giusto. No. Così quando io mi alzo lascio la moglie che dorme. Anch'io, sono cose che capitano, purtroppo, la durata vita. No, perché mi ricordavo che ti svegliassi con le campane, ma forse l'avevi risolto. Pane. Della chiesa? No, no, io mi svegliavo con un antifurto di un cantiere. Giusto, giusto. Che grazie a Dio è finito il cantiere. Meno male. Comunque, è un gadget questo che a me piace moltissimo, meglio della solita lampada con la peretta, che tra l'altro può anche tranquillamente diventare una lampada per la scrivania, perché comunque ha l'orario, eccetera, è collegata col Bluetooth, ha un suo perché, ecco. Ok, bene, bene. Quindi luci colorate per tutti i comandabili dal telefono, essenzialmente. Esatto, bellissimo. Molto, molto bene. Allora, siamo agli ultimi tre pezzi, direi. Sì, sì. Ho invertito due cose perché c'erano due tue attaccate. Allora, torniamo a parlare di PC. E devo cambiare il PC per casa, ci scrivo due mail, faccio due lettere e navigo su Facebook, oppure quello dei miei genitori o della zia. Ma non voglio spendere troppi soldi. Allora che cosa faccio? Compro l'Intel NUC. Cos'è l'Intel NUC? È un quadrato di 10 cm di lato, alto 4 cm, e dentro ha un i3, Wi-Fi, Bluetooth, 4 porte USB 3, una delle quali che ricarica anche a PC spento, slot per ovviamente due slot per delle DIM di RAM, e il SATA e soprattutto l'M2, che è quello per gli SSD piccoli, sono delle piccole schede. Sì, sì. Tu compri il NUC, compri la RAM, compri l'hard disk, lo assembli, perché la RAM e l'hard disk devi montarli dentro, e con 300 euro scarsi hai un PC con un i3 silenziosissimo che consuma pochissimo e che va benissimo. Senti, ma l'i3 perché non è un processore di quelli che non scalda, ma questo ha un sistema di raffreddamento passivo. Passivo. Ah. Passivo. Non fa rumore. Io ne ho uno. Allora, a casa avevo, per motivi di lavoro, per davvero, non è quelle cose fasulle, avevo bisogno di una macchina Windows. Ci ho provato con con VirtualBox, fare le macchine virtuali, sempre un casino, aggiornarle, non aggiornarle. Ho comprato questo, l'ho piazzato sotto al monitor. Sta sempre acceso. Ci ho messo sopra Windows 10, ovviamente la licenza non c'è, quindi se volete Windows dovete comprarvi anche la licenza. Ci ho messo sopra LogMeIn, che è il sistema che uso per collegarmi da remoto a alcuni clienti, e un client l'ho tenuto per me. Lui è sempre acceso, non fa rumore, non scalda. E mi salva la vita in un sacco di casi. Per esempio, le teleassistenze per i clienti le faccio puntare là, quindi io mi collego a quella macchina lì e da lì faccio la teleassistenza sui clienti, sviluppo, eccetera. È piccolo, consuma poco, come uscita video ha un DisplayPort e una mini HDMI, occhio che è una mini e non fatevi fregare. Mm-hmm. Allora aspetta, sì, le porte USB sono 4, ha l'uscita microfono cuffie, peserà 300 grammi, ha l'alimentatore esterno, e guarda, è veramente una bella macchinetta, lo chassis è tutto fatto in alluminio, e quindi è anche proprio bello da vedersi. Oh, ma sai che questo potrebbe essere un ottimo sostituto per molti PC, soprattutto in ambienti, guarda, molti PC industriali, ecco, capito, cioè di quelli. Allora non è proprio da industria, perché c'è le feritoie, se lavora in un posto sporco la polvere entra, però in ufficio se bisogna cambiare 40 PC si comprano 40 NUC, la RAM ormai costa poco, un hard disk da 120 giga che va bene per qualunque tipo di ufficio, che non è che ci si debba fare il mondo. È un ottimo PC anche per casa. Ah, sì, devo sì. Cambiare il Bogolone Mini Tower, compro quello lì e ho tutto. Tra l'altro, essendo Bluetooth, potete mettere la tastiera senza fili, il mouse senza fili, e ha un sistema suo che io ancora non ho provato per il wireless display. Ottimo. E c'è la versione, quella più bassa, che non ha lo slot SATA, oppure c'è quella con lo slot SATA, e c'è anche la versione i5 e i7, ovviamente costa di più. Ma, però mi piace tantissimo l'idea, cioè è quell'idea dei mini computer che sta dietro anche al Raspberry, insomma, a parte il fatto che Raspberry poi ha la GPIO, ci puoi fare altre cose varie. Sì, però... no, questo è un computer che va benissimo per ufficio. Tenete conto che io ci ho messo su Visual Studio e SQL Server Express e non ha patito. Però, senti, ma la RAM saranno micro DIM, una roba mini DIM? Quella sono roba... quelle da portatili. So DIM, come diamine si chiamano? Sì, quelle lì. Se tu compri il NUC su Amazon, lui ti offre già NUC, RAM e disco già della tipologia giusta. Ah, però. E il totale quanto fa? Aspetta, è 300 e qualche cosa, aspetta un attimo. Beh, dai, lo comunque... facciamo in tempo reale. Ma sai, guarda, è anche uno di quei PC per cui, cioè, alla fine, insomma, te lo metti in tasca, lo porti dal cliente, ci attacchi il suo monitor. Allora, quello che ho preso io, che si chiama, c'è ancora? C'è anche la versione Celeron, tra l'altro. Allora... Dunque, quello piccolo di sesta generazione, quindi quello senza slot per il SATA, costa 300 euro. Più l'hard disk, più la RAM. Quindi vai a spendere 400 euro in tutto. Allora, diciamo che con 400 euro puoi comprare un notebook... insomma, anche, forse anche un i5, però per le applicazioni, per delle applicazioni d'ufficio è fenomenale. Ah, alla staffa Vesa, ecco. Quindi volevo proprio chiedertelo dietro al monitor. Sì, volevo proprio chiederlo perché ho detto, ma vedrai che si può anche appiccicare dietro il monitor, anche perché vogliamo parlare di quanto costa un thin client un pochino decente, cioè non è che siamo molto distanti, la stessa cifra, ecco. Appunto. Quindi con annessi e connessi di casini, eccetera, eccetera, non è male, anzi mi sembra una soluzione che ha una sua applicazione, certo non è una cosa generale, però insomma, bellino. Io lo uso con soddisfazione da, mi sembra, ormai più di un anno, è veramente eccellente. Bene. Tra l'altro è la macchina con cui ho programmato il Wemos, perché da Mac non ci sono riuscito. E vabbè, che cosa vuoi fare? Insomma, ognuno c'ha le sue croci. Scemo. Va bene, dai, vai tu con l'ultimo, poi io vado con l'ultimo, perché qua siamo già a un'ora e 33, dice Audacity. Sì, allora, l'ultimo è uno di quei gadgettini che piacciono agli smanettoni e a chi comunque si diletta di costruzioni in ambito elettronico, ma non si può permettere grandi cifre. Si tratta di un oscilloscopio mini, il display sarà da 2 pollici e 8, qualcosa del genere, molto simpatico, con la sua con il suo contenitore trasparente che fa vedere tutti i componenti dentro, insomma è un monotraccia. Però la sua punta di diamante è il costo, e cioè 20 euro. Ditemi voi se, ovviamente non ci aspettiamo grandi bande passanti o grandi frequenze, eccetera, eccetera, però per dei maker casalinghi come sono io, potrebbe non essere male. Tra l'altro, se non mi ricordo male, oltre che fare da oscilloscopio, fa anche da generatore di frequenza e cose del genere. Insomma, per 20,97 euro in promozione fino all'11 di novembre, quindi c'è ancora qualche giorno, ce la faremo ad uscire, sì dai, fino all'11 di novembre dovremmo. Allora oggi è 5, io conto di uscire 7-8. Ecco dai, speriamo. Comunque, fino all'11 di novembre in promozione a 20 euro, finita la promozione costa 22,79 euro, voglio dire, dai. Ok, anche si può fare comunque, sì, dai, anche insomma. Se non fosse in promozione ci sta tutto. È bellissimo. L'unica cosa è prendere quello che di cui mettiamo il link, perché ne esiste un'altra versione più economica, uguale identica, ma più economica, dove però i componenti SMD non sono montati. E vi lascio immaginare cosa vuol dire montare dei condensatori e delle resistenze SMD se non siete molto pratici e avete un saldatore con una punta iperfinissima per potersene montare, quindi insomma prendete quello che vi consigliamo, perché l'altro è un pochino più difficile da assemblare. La cosa triste è che ho aperto il sito, ho visto lo oscilloscopio e poi a fianco mi hanno fatto vedere un albero di Natale montato su scheda ed è bellissimo. Vabbè, no. Non importa, chiudiamo. Guarda, chiudiamo. L'albero di Natale più bellissimo, si può dire più bellissimo, che ho visto è uno che ho visto, ho filmato su Twitter, che forse ho anche ritwittato, però ragazzi, cioè è una figata immensa. È veramente qualcosa di, a parte il tizio che ci ha studiato perché l'ha tutto mappato in 3D per poter fare gli effetti, però dai, vederlo è una cosa spettacolare, forte, fortissimo. Bene, bene, bene. Allora, adesso tocca a me per l'ultimo. Allora, l'altro giorno io stavo parlando con Giuliano in chat, perché c'è Valentina che vorrebbe una maglietta con una scritta che si illumina allo schiacciare di un bottone. E la scritta genericamente è uno sticazzi, cioè sai, quando qualcuno arriva ti parla, bla bla bla, tu fai la faccia finta interessata, schiacci il bottoncino e sulla maglietta compare sticazzi. È bellissima. Il problema è trovare un qualche cosa da fare sulla maglietta, perché non sembra, ma il wearable da lavare è un casino, insomma, bla bla bla bla. E Giuliano mi dice: guarda, questa cosa qua non è lavabile, ma se fai una tasca nella maglietta ce lo metti dentro. Allora, è una striscia di LED, ora non mi ricordo più quanti punti sono, è alta circa 10-12 cm se non vado errato, i LED sono tutti RGB, la striscia è flessibile e ha una potenza luminosa non indifferente, talmente tanto che il produttore dice: attenzione, se accendi tutti i LED in colore bianco per più di un tot consuma 15 ampere e si brucia. E credo, allora, generi, io questa cosa me la sono, credo generi anche, scusa? un certo calore esatto. Beh, la usi per accendere il camino un po' come si fa con il Galaxy Note 7, esatto. Ovviamente non va bene per la maglietta, ma io mi sono immaginato questa striscia messa sul lunotto posteriore dell'auto, attaccata con un dispositivo che abbia il Bluetooth e interfacciata con Siri del telefono. Cioè tu pensa, sei in traffico, c'è uno che sei sull'autostrada, c'è uno che ti fa i fari e tu dici a Siri: scrivi sulla macchina, tanto io non mi tolgo. Siri si interfaccia con l'applicazione, Siri fa il riconoscimento voce e testo, lo passa all'applicazione, l'applicazione via Bluetooth lo passa alla striscia posteriore e la striscia posteriore scrive: tanto io non mi levo. Cioè tu pensa, uno, che figata pazzesca, due, quanti morti per le strade. Esatto. Però allora, senza arrivare a questi limiti, questa striscia di LED flessibile è bellissima. E tra l'altro i signori di Adafruit, come fanno sempre, hanno già fatto tutte le librerie, quindi potete tranquillamente scaricarvi la libreria e interfacciarla con il microcontrollore che volete. Se non erro funziona anche con Arduino. Sì, ma figurati. Bene, bene, dopo aver finito con questa chicca, io passerei la voce a Mario, sperando che Mario riesca a registrare da malato il suo contributo di 3 o 4 gadget, oppure se non c'è la trasmissione proseguirà senza il commento di Mario. Ci sentiamo tra un attimo. Salve a tutti, un sentito grazie a Francesco Giuliano per ospitarmi, anche se in teoria non sarei dovuto esserci. Sono qui a parlarvi dal mio studio, che sarebbe dovuto essere in teoria in Giappone, perché dovevo essere in viaggio in questi momenti, però grazie a una fantastica tonsillite sono rimasto a casa, quindi ho approfittato per racimolare un po' delle mie idee e buttarvele anche tra questa listona di regali, quindi per fare un po' più poveri. Bando alle ciance, per non farvi perdere tempo, ci buttiamo subito nella mischia. Allora, come mio solito, un paio di cosette che piacciono a me, che spero piaceranno anche a voi. Quando abbiamo parlato la prima volta che uscì, e poi sempre con più amarezza, del Raspberry Pi Zero, uno dei problemi che si sono avuti è stato quello della disponibilità, diciamo. Per voi ho trovato un paio di cosette in questi giorni che potrebbero essere interessanti. Non posso promettervi sull'affidabilità della disponibilità di questi oggetti, però le aziende che li stanno proponendo fino adesso hanno sempre avuto una disponibilità molto alta. Prima cosa perché sono aziende che vivono su queste cose. E, diciamo, la Raspberry Foundation è molto più basata anche sulla beneficenza, sul fatto di dover fare divulgazione, di dover fare sviluppo della tecnologia tra i bambini, eccetera. Comunque, diciamo, quello che ho fatto sono un paio di board simil Pi Zero. La prima di quelle che vi vado a mostrare, di cui vado a parlarvi, è la Orange Pi Zero, che con molta fantasia questa azienda cinese che produceva già la Orange Pi, che era veramente un clone del Raspberry ma un pelo più potente, ha prodotto un oggettino molto simile al Raspberry Zero, che invece di costare $5 ne costa 7, però diciamo possiamo viverci. La differenza dal Raspberry Zero è che è un pelo più grande come dimensioni, diciamo è grande circa 5, è più o meno un quadratone, 5x5, in realtà 52x46 mm, e pesa 26 grammi, che già è buono. La grossa differenza rispetto al Raspberry sono i per il Zero, sono gli input output. La prima cosa devo dirvi, non ha un'uscita video, quindi potremmo essere un pelo incasinati, tranne se non si vogliono usare i pin che mostra, però quindi dovendo attaccare con alcune interfacce apposite, dovendo fare un paio di saldature, eccetera. La cosa buona che ha è che, prima cosa, porta su un ARM come CPU A7 quad core, quindi molto più potente dell'ARM single core del Raspberry Zero. Ha un interfaccia 100 megabyte Ethernet con power over Ethernet, una USB 2, un modulo WiFi integrato, poi la classica interfaccia micro USB per OTG e power, memoria che va da 256 ai 512 e cambia un pelo il prezzo di $1, e espone una serie di pin che sono compatibili con Raspberry B Plus, quindi che vanno dal B Plus in poi, non la vecchia serie del AB. Inoltre, sì, vabbè, porta le solite micro SD card come sistema operativo, ha una flash SPA opzionale che può essere saldata sulla parte di sotto, e un'antenna WiFi che dovrebbe venire insieme al chipettino che va alla board, che va attaccata direttamente sul chip per estendere il range. Diciamo, si trova per adesso, è prodotto direttamente in Cina e si trova direttamente su AliExpress, ovviamente. Quella base costa viene intorno ai $7, e volendo aumentare la RAM, se non erro, viene $1 di più, quindi intorno agli 8. Le spese di spedizione io le vedo per la Germania, perché sono in Germania, però variano tra i 3 e i $4, però non dovrebbero aumentare col numero di prezzi tantissimo, quindi diciamo, se uno vuole prendere una diecina li vengono a fare, sì, 7-8 dollari. Comunque le sue spedizioni sono intorno ai $3-4. Quindi questo è il primo oggettino bello potente che vi che vi propongo. Quindi se siete stati a sbavarito Raspberry Pi e non siete riusciti ad arrivarci fino adesso, potete fare un pensierino a questo oggettino che dovrebbe essere trovabile su AliExpress. Ho dato una lista, una vista anche a tutte le persone che già l'hanno comprato, e c'erano già diverse centinaia di acquisti per questo oggetto. In particolare questo che sto vedendo, per esempio, che vi linkerò, già intorno ai 300-400, e siamo tutti soddisfatti i compratori. Quindi io ho avuto esperienza con l'Orange P prima edizione, che era comparabile col B, e la cosa ottima per cui l'ho preso è che aveva un attacco SATA su cui ci ho attaccato un bel hard disk che mi ha fatto da NAS praticamente per 4 anni, finché l'hard disk non si è sfondato, e devo dire non mi ha mai dato problemi. Loro sono stati sempre molto reattivi a fornire firmware OS, quindi il firmware, che se non sbaglio si chiamava una roba tipo Rangian, copia di Raspbian, ovviamente tutto copiato, ha sempre reagito molto bene. Io ci avevo montato su una distribuzione per fare da NAS, che era Low Media Vault, che era una roba tipo FreeNAS, diciamo, però molto basata sull'interfaccia web, molto comoda, e mi ha sempre funzionato benissimo. Quindi questo è il primo oggettino molto economico che vi posso consigliare per questo Natale. Poi vi linkerò anche una recensione e una bella paginetta di come comprarlo, se vi fidate delle spedizioni cinesi. Il secondo oggettino che vi presento è anche una cosa molto simile, che si chiama il Nano P Neo, che è una piccola board, ovviamente sempre, come dire, si posiziona nel comparto di come possiamo dire, non è simile, però diciamo, vogliono copiare il Raspberry Pi Zero anche loro. Anche questo oggettino ha un chip ARM A7 a quad core, a differenza sempre del Raspberry Pi, è molto più piccolo, infatti è, come dimensioni fisiche, è un paio di centimetri, no, di più, scusatemi, è un paio di centimetri, però 4, quindi è tipo un quadratone 4x4, mentre il Raspberry è 65x30 mm, quindi come area siamo più o meno lì, però è molto quadrato. Come memoria in questo caso anche abbiamo 256-512 MB di RAM. Il sistema si mette sempre su una micro USB, scusatemi, e la connettività è data da un Ethernet fisica. In questo caso non abbiamo wireless integrata come nel caso precedente, e monta una sola porta USB già lì, mentre ci sono due header che volendo si possono saldare sui pin di espansione per avere altri due USB direttamente da sistema. Tutte queste USB normalmente sono gestite da un singolo chip, come sugli altri Raspberry, anche sullo Zero, ma non sono esposti tutti i chip. Gli header di espansione, c'è una bella fila da 24 pin che porta su I2C, UART, SPI, PWM, eccetera, e segnali di power, e un'altra extra da 12 pin singola. Quella da 24 non sono sicuro, però sembra molto simile a quelle Raspberry, quindi potrebbe essere compatibile con gli altri Raspberry, mentre quella da 12 pin singola è dove vengono posizionati l'extra 2 USB, ma se qualcuno lo vuole, e altre cose interessanti come il line out, il microfono in, eccetera. Ci sono, come nel caso precedente, dei pin per fare il debugging, LED per lo status, eccetera, e il power viene, come nel caso precedente, come tutti i Raspberry, dato su una micro USB a 5 volt normale o tramite gli header. È molto carino, e come al solito non ha, come prima, come nel caso precedente, non ha nessuna interfaccia di connessione video, quindi volendo poter fare qualcosa viene solo via per fare applicazioni headless, cosa che a me piace tanto. Anche come nel caso precedente non ho idea del consumo, però vedendo le dimensioni ridotte, gli input in e out ridotti, immagino che siamo nel range del Raspberry Zero, quindi pochissimo. Per adesso non danno sulla distribuzione che danno, che è anche un Ubuntu Core, volendo non provvedono, non hanno pensato di dare un Linux kernel molto avanzato, per adesso siamo sul 3.4, però sembra che dovrebbero arrivare molto presto nello stream normale dei Linux kernel 4.7.4.8, con molte innovazioni e cose utili che si possono avere, come quando abbiamo parlato anche di Docker, la virtualizzazione direttamente nel kernel, eccetera. Il prezzo di questo piccolo gioiellino è, nel modello base, quindi quello 256 MB di RAM, $8, e quello avanzato $9 e le Space Spedizioni sono intorno ai $4. La cosa interessante, scusate che vi parlo sempre in dollari, però sono i prezzi che loro espongono, quindi dipendendo dal momento delle fluttuazioni il prezzo in euro cambierà, però siamo sempre più o meno lì. La cosa interessante di questo distributore, che è sì cinese, però è un distributore europeo in Germania, quindi per chiunque voglia comprarlo penso che sia un affare abbastanza buono. Come sempre vi metteremo tutti i link in calcio dell'episodio. Andando avanti, avevo anche altre due cosine semplici e molto interessanti da potervi portare. Queste non sono per cose alternative, ma sono direttamente per Raspberry Zero. Ho due oggettini che sono stati prodotti da una ditta che si chiama Hi-Fi Berry, che alcuni di voi conosceranno, che producono, diciamo, interfacce di uscita audio per Raspberry. Io ho posseduto il DAC per Raspberry B prima versione, che devo dire che ha dato un miglioramento all'uscita audio di Raspberry notevole. Per all'epoca costava quanto i Raspberry, quindi intorno ai 30-35 euro. Quelli che vi propongo oggi sono due oggettini. Uno è l'Hi-Fi Berry DAC Plus Zero, che è praticamente un piccolo hat che si mette su Raspberry e vi provvede in uscita. Sapete che sbaglio ogni tanto perché ultimamente ho avuto molto a parlare di... molto a che fare con persone che parlavano inglese, quindi provvedere e providing, quindi vi forniscono con delle uscite. In questo caso loro sul sito fanno vedere solo uscite RCA, quindi voi attaccate con sugli header del Raspberry, che dovete saldare sia su questa schedina sia su Raspberry, sono vendute nude praticamente solo con l'uscita, e vi fornisce in uscita una bella... un bel audio a 192 kHz a 24 bit di profondità di in audio. Quindi sulle schedine normali si poteva scegliere se avere l'uscita per dire RCA o digitale o come si voleva. Su queste non sono sicuro, ma mi sembra dalle descrizioni che sono solo per uscita RCA. Dato che il Raspberry c'ha lo stesso set di header degli AT simile a tutta la nuova generazione, questa schedina è anche adattabile da Raspberry B Plus 2 e 3 in poi, quindi se volete una cosa a basso prezzo intorno ai $15 potete utilizzarla anche su altre schede. Ricordate una cosa, questo distributore Hi-Fi Berry si trova in Svizzera. Io ho fatto l'altra volta la amara scoperta che dalla Svizzera si paga i dazi doganali, che sono belli cari se si superano, se non ricordo male. Io tutte le spedizioni che faccio dalla Cina riesco sempre a cavarmela se sto sotto i €20. In questo caso, essendo $15 e €15, dovreste cavarvela. Però io l'altra volta con la schedina Hi-Fi Berry DAC che costava 32, pagai una bellissima cifra di 12-16 euro di spese tra spese di spedizione e dazi doganali, il che mi ha fatto dopo ben pensare che hai potuto chiedere a vari amici che abbiamo anche in Svizzera di prendere, spedirmelo, portarmeli, visto che ogni tanto vengono. Quindi fate i vostri due conti, comprando solo questo oggetto dovreste riuscire a cavarvela senza spedizione, quindi per $15 mannaggia, scusate, per €15 per un DAC decente, secondo me, se uno pensa di fare un'applicazione audio con Raspberry Pi 0 se ne ha uno, potrebbe essere interessante da investire. L'altro mini oggettino che volevo portarvi alla vostra attenzione è un mini amplificatore. Fondamentalmente è un oggettino simile al precedente, cioè un AT, che funziona non da convertitore da digitale ad analogico, ma direttamente un amplificatore di uscita. Quindi prende il segnale digitale dal vostro Raspberry Zero o, come abbiamo detto prima, a più B più 2 o 3, e lo converte direttamente in segnale amplificato da mandare alle casse. È un amplificatore di classe D che provvede pochissimo, riesce a fornire pochissimo, cioè solo 3 watt, però con piccole casse o per piccole applicazioni potrebbe essere carino, come una piccola radio per la cucina o un piccolo music player che volete avere per i bimbi, una piccola, non lo so, qualsiasi cosa che vi viene in mente che ha bisogno di poca potenza. Con un paio di buone casse piccole dovrebbe riuscire a soddisfare anche le persone più esigenti. Questo oggettino costa intorno ai $20, $19.90. Poi dovete vedervi le spedizioni che dipendono dove state, dato che immagino che la maggior parte di voi sia in Italia, verrà non tantissimo, un paio di euro, 3-4, una roba del genere. E in genere da loro ci vogliono circa 3-4 settimane, anche se non sono così lontani. Quindi se volete farlo per Natale potete affrettarvi e cercare di beccare uno di questi bei oggettini che loro forniscono. Quindi La mia, il mio segmento questa volta è finito. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero di riuscire a rimanere dei tempi di trasmissione in generale. Ringrazio tutti già in questa parte, perché dopo penso di non esserci. E ringrazio naturalmente Francesco e Giuliano per avermi ospitato e per aver tenuto la baracca intanto che non ci sono. Dal mio letto di malattia un saluto e buone compere a tutti. Ciao. Ringraziamo Mario e direi che a questo punto possiamo assolutamente chiudere questa puntata, sperando di avervi dato buoni stimoli per spendere bene i vostri soldi. Ricordatevi che un regalo che costa un po' di più ma che vi piace vale molto di più e dura molto di più di una cazzatella che poi non, vi comprate ma non usate. Ricordate che il regalo che fate deve fare felice la persona a cui lo fate e non deve soddisfare voi, quindi se a una persona piacciono le cose blu e a voi piace tanto il rosso, non regalategli una maglietta rossa perché a voi piace tanto. Se pensate così, la gente sarà sicuramente più felice e ci saranno molti meno falsi sorrisi nella notte di Natale. Oh, che bella questa cosa orribile, una roba del genere. Sì, ecco. lì ci voleva la maglietta, eh. Perfetto, perfetto, esatto. Vedi che questa maglietta ha un suo mercato, devo pensarmela. Ce l'ha, guarda, non c'è niente da fare. È un copyright di mia moglie Valentina. Va bene, allora, signori cari, noi ci sentiamo presumibilmente ancora una volta prima di Natale per gli auguri e per una chiacchierata. Abbiamo già in mente una idea carina e moderna per fare questa puntata qua. Vi ricordiamo che tutti i link li trovate sul sito geekcookies.github.io, perché non potete ricordarveli tutti da questa puntata. Sullo stesso sito trovate le mail, i contatti, i credit della sigla, insomma trovate tutti i modi possibili per contattarci. Se volete contattarci in modo pubblico, scrivete sul forum di GitHub che abbiamo appunto per queste cose qua. Cerchiamo di non diffondere le comunicazioni su 86 canali. Se volete scriverci in privato una mail, in pubblico sul forum. Se volete fare un tweet carino, ovviamente noi li leggiamo sempre. Cerchiamo anche di rispondere sempre a tutti quanti, ma non sempre ce la facciamo. Alcuni link che avete su questa puntata e su altre puntano su Amazon come link sponsorizzati. A voi non costa un centesimo di più, a noi qualche centesimo sulle vostre spese arriva, anche se comprate altro. Quindi se voi entrate con un nostro link e vi comprate tutto l'arredamento per la casa nuova, noi siamo felici. Felicissimi, sì sì. Felicissimi. Ora, per la casa nuova, dobbiamo e anche per i 20 euro che ci arrivano. Dobbiamo convincere Mario a comprare il microfono nuovo per Giuliano, così non perde due ore tutte le volte per fare il setup della postazione audio per il podcast. E se lo compriamo è grazie a voi, ovviamente. Ci trovate su qualunque piattaforma, su iTunes, Stitcher, Player.fm, Spreaker, i podcast su Google, insomma, dappertutto. Grazie per l'ascolto, un saluto dalla piovosa Torino. Beh, anche qui non è che ci voglia molto per piovere, quindi anche qui saluti e baci. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao ciao.